edizione. Sono le 6 e 14 minuti, ancora buona giornata allora da Anna Migliorati. Questa mattina niente Zapping TV, ma cominciamo subito con le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport. Coraggio Abidal, è una storia davvero che sta commuovendo tutto il mondo dello sport, quella del giocatore del Barcellona, il francese operato un anno fa per un tumore, leggiamo dalla Gazzetta, dovrà sottoporsi ad un nuovo trapianto di fegato. Mi sento forte, tornerò. Dice lui. Che successe? Il 14 marzo di un anno fa il Barcellona emise un comunicato annunciando il tumore al fegato del suo giocatore, che solo 48 ore prima era stato uno dei migliori nella partita con la Siviglia. Operato 72 ore dopo, Abidal tornò in campo tra la meraviglia generale dopo soli 47 giorni. Aveva lasciato negli spogliatoi un post-it per i compagni, dando loro appuntamento a Wembley, e mantenne la parola grazie all'enorme forza di volontà e all'aiuto di un fisico prodigioso. Ora la nuova battaglia di Abidal, a lui dedicata la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Coraggio Abidal. Prima edizione. E su cosa aprono questa mattina i quotidiani che troverete in edicola? Beh, l'attenzione naturalmente è puntata sul vertice tra governo e segretari dei partiti di maggioranza, di cui anche noi abbiamo parlato già ieri mattina e poco fa in GR24. Vertice durato veramente fino a tardissima notte, alla fine una intesa almeno sui due punti principali che erano in agenda, vale a dire lavoro e giustizia, sembra esserci stata. Non si è parlato invece del nodo politico spinoso di Rai, però sulle questioni concrete l'accordo sembra esserci. Allora, così i quotidiani in edicola. Corriere della Sera, accordo sull'articolo 18, La Repubblica, lavoro e giustizia, sì all'accordo, intesa su giustizia e lavoro, Il Messaggero, La Stampa, lavoro e giustizia, c'è l'intesa, più o meno stesso tenore insomma per tutti i quotidiani in edicola. Sul Sole 24 Ore, che oggi apre sulla guida ai nuovi lavori con 8 contratti per i giovani, la notizia è a centro pagina, la trovate. Monti e partiti trovano l'intesa su giustizia articolo 18, anche qui il tenore è lo stesso. Ma dicevamo, cosa è successo? Allora leggiamo dal Corriere della Sera, accordo tra governo e partiti sull'articolo 18 per il quale si profila una riforma sul modello tedesco, cioè quello che già emergeva nei giorni scorsi. Il Premier Monti durante il lungo vertice a Palazzo Chigi ha chiesto un'intesa d'ampio raggio anche per la crescita, ma di questo si parlerà la prossima volta, e ora la maggioranza auspica l'accordo con le parti sociali e poi un'approvazione tempestiva in Parlamento. Sul fronte giustizia l'intesa ci sarebbe sul DDL corruzione e sulla responsabilità civile dei magistrati. Questi contenuti, poi naturalmente i commenti. Dario Di Vico sul Corriere della Sera ci ricorda che c'è però la protesta dei piccoli, figli di un dio minore. Ieri Marco Venturi ha fatto persino il giro delle tre chiese, è stato da Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini, per manifestare tutta l'insoddisfazione di Rete Impresa Italia, di cui è portavoce, verso le conclusioni a cui sta arrivando il negoziato sul lavoro. Per i piccoli ancora protestano, insomma, se c'è l'intesa politica. Io già vi anticipo che Marco Venturi, dopo il giro delle sue chiese, questa mattina sarà anche a prima edizione con una sveglia molto presto, l'avremo con noi alle 6.45, allora lo chiederemo direttamente al protagonista questo retroscena. La Repubblica, anche qui retroscena sull'articolo 18, tratto e chiudo io, si sarebbe aperto così secondo Francesco Bei e Goffredo De Marchis il vertice a Palazzo Chigi. Serve un patto tra di voi perché il Paese e l'Europa hanno bisogno di un governo stabile. Le parole di Mario Monti, che avrebbero aperto il vertice di ieri sera, facendo capire subito a Bersani, Alfano e Casini che il vertice si deve concludere senza strappi. Tra l'altro, ve l'ho ricordato proprio alle 6, aprendo già prima edizione, se volete anche vederle, le immagini del vertice ci sono, perché le ha twittate Casini proprio mentre il vertice era in corso. Molti altri naturalmente i commenti e le analisi. Stefano Folli, che è stato con noi ieri mattina a prima edizione da Il Sole 24 Ore, questa mattina scrive: la strategia dei piccoli passi. Dal punto di vista di Mario Monti, la promessa di un accordo sul mercato del lavoro ha costituito il miglior viatico al vertice di ieri sera. Ci sarà poi tempo per verificare quanto valga nel merito l'intesa con i sindacati una volta definita e quali saranno i suoi costi e la sua portata. Lasciamo questa che è la notizia di apertura un po' per tutti, per venire invece alle altre notizie che variano un po' da quotidiano a quotidiano. Allora, taglio centrale del Corriere della Sera, ancora la questione OGM lanciata ieri dal ministro Clini proprio in un'intervista al quotidiano di Via Solferino. E allora la polemica, come ieri dicevamo, naturalmente è andata avanti, polemica sugli organismi geneticamente modificati, OGM non ci servono, il ministro dell'Agricoltura contro l'apertura di Clini. Allora, se ieri Corrado Clini apriva agli OGM, oggi invece arriva lo stop del titolare del ministro dell'Agricoltura Mario Catania. Quella di Clini, dice, una posizione personale e non del governo. Il Corriere della Sera a fondo pagina ci ricorda anche l'altra notizia di oggi che vi abbiamo dato in GR24, l'autista distratto da un DVD, la testimonianza dei bambini scampati al disastro del pullman in Svizzera, farebbero puntare verso questa via le indagini inquietanti di quel che è successo, 22 bambini morti, 28 persone in tutto per essersi schiantati contro un tunnel, non ci sarebbe stato nessun problema di sicurezza ma distrazione dell'autista. Naturalmente le indagini vanno avanti. La Repubblica fa scelte diverse, e allora le altre notizie che trovate invece in evidenza in prima pagina oggi sono due. Da una parte la benzina a quota 2 euro, gli automobilisti in rivolta, battuto anche il record del 1977, e la Repubblica ci ricorda anche che allo Stato va il 50% del prezzo. Immagine in prima pagina sulla Repubblica, dedicata invece alla sentenza della Cassazione depositata ieri, anche questa destinata naturalmente a far discutere. La Cassazione, alle coppie gay gli stessi diritti delle famiglie, dice la Cassazione, ma no al matrimonio omosessuale. L'anomalia italiana, scrive Natalia Aspesi, stessi diritti ma no al matrimonio nel vero senso della parola. Queste le due notizie che trovate in evidenza su la Repubblica. C'è però un'altra notizia che oggi trovate su tutti i quotidiani, ma che in realtà è stata rilanciata dall'Espresso e che riguarda la Margherita, 866.000 euro dalusi alla Fondazione di Riutelli, soldi dirottati con bonifici inferiori ai 150.000 euro. L'ex leader della Margherita, tutto falso e depistaggio, stamattina ve lo leggo, e la copertina dell'Espresso, l'uomo che fa tremare il centro-sinistra, dedicata a Lusi. Allora, altre segnalazioni questa mattina, davvero più o meno sono sempre le stesse le notizie sulle prime pagine dei quotidiani, ma ancora due segnalazioni intanto ve le faccio. Una riguarda la Cina, perché il Corriere della Sera questa mattina in prima pagina mette un'immagine di Bo Xilai. Le questioni cinesi sempre più ci interessano. Bo Xilai cade nella lotta al vertice del partito in Cina, l'epurazione del principe Maoista Sergio Romano. Bo Xilai, chi è? Un carismatico e ambizioso leader, come lo definisce Sergio Romano, della provincia che insidiava prassi e strategie del potere messe a punto a Pechino, e allora è stato rimosso dalla carica di segretario del Partito Comunista di Kong Qing. Un'epurazione, e ci racconta la Cina Sergio Romano, pagine interne del Corriere della Sera. Naturalmente poi con Alessandro Milan molte altre curiosità. Ancora una, c'è tempo, sì, ancora qualche istante per guardare le prime pagine dei quotidiani, ce l'abbiamo. E allora Repubblica 2, i pentiti di Wall Street, dai dollari alla fede, e come scoprire che ci sono le prostitute a Las Vegas. La firma è quella di Vittorio Zucconi, dicevo, è come scoprire che ci sono le prostitute a Las Vegas, commenta spietato sul Washington Post Whitney Wilson, che amministra a Wall Street un fondo di 2 miliardi di dollari, leggendo la lettera denuncia contro la Goldman Sachs di un vicepresidente pentito. È molto gustosa la lettura del pentiti di Wall Street, come li definisce Vittorio Zucconi. Taglio basso invece della Stampa, sempre meno uomini in cattedra, onore ai maestri, c'è grande bisogno di loro, anche qui un ritratto dell'Italia. Per gli studenti però l'equilibrio con le donne è importante, il maestro sempre meno nelle scuole italiane, così anche questo qui uno spaccato d'Italia, ma a fondo pagina della Stampa. Ma lasciamo le prime pagine dei quotidiani, c'è naturalmente molto altro, avremo tempo poi per parlarne alle 7:20 nella rassegna stampa con Alessandro Milan, perché ci aspetta questa mattina Giacomo Bagnasco, e quando c'è Giacomo Bagnasco parliamo di rugby. Siamo alle battute finali questo fine settimana per il Sei Nazioni. Giacomo. Sì Anna, buongiorno, siamo arrivati all'ultimo atto di questo Sei Nazioni e in testa c'è il Galles che ormai è strafavorito per la vittoria finale. È vero che se perdesse in casa contro la Francia potrebbe ancora essere raggiunto in classifica dall'Inghilterra che ospiterà l'Irlanda, ma i gallesi hanno una differenza punti decisamente migliore e a questo punto solo una sconfitta pesantissima, insomma è altamente improbabile, potrebbe cambiare una situazione che ormai sembra definita. In coda invece ci sono due squadre ancora a zero punti, Italia, ahimè, e Scozia, che domani si affrontano a Roma e giocano in uno stadio olimpico che dovrebbe essere affollato da più di 70.000 persone, quindi questa è già una vittoria sul piano della popolarità. Ma naturalmente c'è un successo da cercare sul campo per evitare quel cucchiaio di legno che nella realtà non esiste, ma ormai è diventato famoso anche dalle nostre parti. Diciamo comunque che cos'è, un trofeo virtuale, beffardo, per la squadra che termina ultima perdendo tutte le partite. Se vogliamo, questo scontro della disperazione, solo sportiva naturalmente, intendiamoci, si può moltiplicare per tre, perché Italia-Scozia nel fine settimana si giocherà anche a livello di nazionali under 20 e di squadre femminili. Tutti i team sempre battuti nei primi quattro turni del torneo. E visto che l'8 marzo è passato da poco, possiamo, per finire, dire che fra le tre formazioni azzurre impegnate sono le ragazze ad avere il pronostico più favorevole. Prima edizione. Con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E l'Italia raccontata in diretta da Italia in controluce Radio 24, 16 marzo. Ricordo due edizioni, 6:30, 13:30. Laura Tussi è responsabile del progetto Per Non Dimenticare, che viene organizzato ormai da diversi anni in un piccolo paese vicino a Milano, cioè Nova Milanese. In che cosa consiste questo progetto e soprattutto cosa avete fatto finora? Ho la responsabilità di coordinare un progetto insieme a Fabrizio Cracolici, che è presidente dell'AMPI di Nova Milanese, un progetto importante dal titolo emblematico Per Non Dimenticare, inerente allo sviluppo di documentazione e anche la valorizzazione del dibattito sugli argomenti della memoria storica, della resistenza, dell'antifascismo e delle deportazioni di civili per motivazioni politiche e razziali nei campi di concentramento e di sterminio nazifascisti. Quindi il progetto Per Non Dimenticare è realizzato in collaborazione con la città di Bolzano e con la città di Nova Milanese in primis e con il patrocinio di diverse amministrazioni comunali e istituti di ricerca e siti e riviste che si occupano di temi inerenti alla pace, la non violenza, i diritti umani, il disarmo e quant'altro. Sono coautrice insieme con Fabrizio Cracolici di vari libri, perché questo progetto produce anche materiale scritto. Il libro principale è un racconto di vita partigiana, il ventennio fascista e la vicenda del partigiano Emilio Bacio Capuzzo, e un altro libro di cui sono autrice singola, Educazione e pace, dalla Shoah al dialogo interculturale. Questi libri sono editi entrambi dall'editrice Mimesis di Sesto San Giovanni. Inoltre il progetto Per Non Dimenticare si struttura in due parti: Memoria in Rassegna, che è una rassegna audiovisiva che raccoglie materiale appunto audiovisivo proveniente da tutto il mondo inerente alle vicende collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Altro settore è Città della Memoria, è una rete di amministrazioni italiane ed europee che hanno l'intento di valorizzare sul proprio territorio i segni del tempo di un passato storico collegato ai temi della resistenza, della deportazione e della liberazione. C'è da dire anche che il progetto Per Non Dimenticare prevede una parte divulgativa in collaborazione con personalità impegnate del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, che sono visibili sul canale youtube.com alla voce Laura Tussi. Torniamo oggi alle 13:30 con Scuola in controluce di Piera Ceci, naturalmente su Radio 24. Thank you.

E dicevamo, proteste ci sono, questa mattina è in corso tra l'altro uno scontro con la polizia, continueremo a parlarne. Grazie intanto a Katia Caramelli. Buona giornata a tutti. Torniamo alle questioni italiane e torniamo alle questioni italiane davvero in primo piano, perché l'accordo sull'articolo 18 e sul lavoro c'è stato nella notte anche al vertice tra governo e segretari dei partiti. Sembra dunque tutto fatto, si va verso un sì alla riforma del lavoro. L'appuntamento è martedì tra Monti e le parti sociali, il martedì prossimo a Palazzo Chigi. Davvero tutto fatto? Allora io vi leggo dal Corriere della Sera quello che scrive questa mattina Marco Di Vico, perché c'è chi protesta, sono i piccoli. Ieri Marco Venturi ha fatto persino il giro delle tre chiese, è stato da Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini per manifestare tutta un'insoddisfazione di Rete Impresa Italia, di cui è portavoce, verso le conclusioni a cui sta arrivando il negoziato sul lavoro. Sarà vero? Lo chiediamo al diretto interessato, ospite con noi questa mattina, Marco Venturi, Rete Imprese, buongiorno. Buongiorno. È vero come scrive Dario Di Vico questa mattina che ha fatto il giro delle tre chiese? Non lo posso negare, sì, ho fatto il giro delle tre chiese per informare anche i maggiori responsabili dei partiti italiani che le cose, la trattativa, non per quello che riguarda noi, le piccole e medie imprese, non è andata nel modo giusto. Quindi abbiamo espresso la nostra insoddisfazione per una manovra, per una riforma che porterebbe il costo del lavoro per le piccole e medie imprese a crescere di costo, e quindi un 2,7%. Il vostro problema è la cosiddetta ASPI, cioè la nuova indennità di disoccupazione. Quella più altre voci, arriveremmo a un 2,7% del costo del lavoro in più, per noi cosa inaccettabile obiettivamente, anche perché in questa situazione di fortissima crisi abbiamo registrato per esempio negli ultimi tre anni un saldo negativo, quindi imprese in meno, quindi non considerando chi apre e chi chiude, quindi ci troviamo più di 100.000 piccole e rischiate costi maggiori. Allora, che vuol dire 300.000 persone che sono uscite dal mercato. Se vogliamo cacciarne altri 300.000 dobbiamo aumentare i costi, i consumi non tirano, quindi insomma bisogna essere obiettivamente equilibrati per non creare problemi al paese, quindi prima che ancora delle imprese. Prima edizione. Marco Venturi, una trattativa che non è andata, secondo voi, quella sul mercato del lavoro che ormai va concludendosi. La questione è questa, insomma, che CGIL e CISL e UIL hanno trattato qualcosa, hanno ottenuto in contropartita. Voi dite no. Allora, io innanzitutto faccio un passo indietro e le chiedo, qual è stata la contropartita, secondo lei, dei grandi per trovare l'accordo? La contropartita dei grandi ce lo dovrebbero dire, perché in genere non è al tavolone che si trattano, diciamo, poi le contropartite. Noi cioè lei dice io al tavolone c'ero, ma non è da lì che è arrivata la svolta? Sicuramente no, perché lì noi siamo usciti con netta insoddisfazione e abbiamo posto un problema per esempio al governo dicendo voi ci aumentate queste voci perché sulla gestione malattia l'INAIL praticamente... Ma allora, questa svolta che... i nostri settori, scusi, sono in forte avanzo, non compensiamo, perché non possiamo pagare da una parte in più di quello che utilizziamo e dall'altra ci aumentate quindi i costi. Abbiamo fatto una proposta obiettivamente equa, cioè soldi nostri in avanzo che possono essere utilizzati per risolvere la partita. Allora, lei mi dice, questa proposta l'avete fatta. C'è ancora spero tempo che da qui a martedì. I segretari dei partiti presentino queste nostre osservazioni, perché non c'è un no pregiudiziale, noi non siamo contro un accordo, non vogliamo essere quelli che escono penalizzati da questo. Cioè voi dite gli altri qualcosa hanno ottenuto, però lei mi dice a questo tavolo questa trattativa, questo qualcosa ad out des non c'è stato. Allora dove c'è stata questa trattativa? quello che io so, quello che c'è stato al tavolo, e al tavolo noi abbiamo posto questi problemi. Poi se ci sono state in altre occasioni queste trattative non lo so, e quindi non voglio nemmeno commentarlo. Io ho discusso solo al tavolo, e al tavolo ho posto questo problema: non regalateci qualcosa, ma ridateci almeno la parte nostra, quella che diamo in più di quello che utilizziamo. E questa mi sembra una ragionevole proposta per trovare una soluzione senza chiedere sforzi alle casse dello Stato. Quindi mi sembra che siamo molto ragionevoli. Vi siete sentiti tagliati fuori dalle trattative coi grandi? Come? Vi siete sentiti tagliati fuori dalle trattative coi grandi, con CGIL e CISL? Noi abbiamo partecipato alle trattative, ma non so che cosa è successo a parte dal tavolone, diciamo, dove abbiamo discusso. Lei continua a girarci intorno, è convinto che sia successo qualcos'altro fuori da quel tavolone? Al tavolone non è successo niente di quello che non si è detto, e quindi non lo so, io non sono in grado di dire cosa esattamente è successo al di fuori del tavolone. Al di fuori del tavolone le posso dire quello che abbiamo fatto noi: abbiamo incontrato più volte il ministro, abbiamo incontrato i segretari dei partiti, abbiamo posto lo stesso problema: non vogliamo regali, ma almeno dateci i soldi nostri, insomma, ecco. Allora, Di Vico stamattina la definisce un po' così: se volessimo fare un paragone calcistico, si può dire che Impresa Italia uscirà a maglia intonsa dal campo perché non ha visto palla. Esattamente, non abbiamo visto palla, ma io spero che ci sia ragionevolezza, visto che proponiamo, insisto, di compensare con nostri avanzi, e quindi non chiediamo. E chi l'ha vista la palla in questa trattativa? Come? Chi l'ha vista la palla in questa trattativa? Guardi, io non sono in grado di dirle chi l'ha vista. Secondo lei, ci sarà. Al tavolone non l'ha vista nessuno. Al tavolone non l'ha vista nessuno. È chiaro che già le proposte contenevano una serie di vantaggi per le imprese più strutturate, quindi una maggiore flessibilità, per esempio, e quindi questi vantaggi e altri vantaggi non sono. Ho tempo solo per una battuta: lei è convinto che si firmi entro il 23? Ma io spero di sì, perché credo che poi alla fine la ragione prevarrà, e quindi arriveremo a un accordo. Va bene, grazie intanto per essere stato con noi, Marco Venturi. Le richieste le avete sentite, Rete Impresa Italia si va avanti a trattare sul lavoro. Grazie, nel frattempo abbiamo sforato anche di qualche secondo, chiedo scusa, ma ci risentiamo tra pochissimo con GR24. Buona giornata da Anna Migliorati.